Tempo la nostalgia di un passato, dove la mamma mia ho lasciato. Non si potrò scordare casetta mia, in questa notte stellata la mia serata io canto per te. Uh-huh.